Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Fiat, la Camusso contro Berlusconi, abdica al suo mestiere. Oggi il giorno del voto a Mirafiori. Legittimo impedimento, giudice in camera di consiglio, decisione attesa nel pomeriggio. Scontri e vittime in Tunisia, l'esercito si ritira dalle strade della capitale, questa mattina saccheggi e cortei. Bocciato il Gran Premio di Roma, Ecclestone dice no. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Scontri durissimi sono in corso a Tunisi, nonostante il coprifuoco si contano altre 3 vittime che ci sono state nella notte e anche in questi minuti nelle strade c'è l'esercito. Prima delle molte vicende italiane andiamo allora nuovamente nella capitale tunisina e torniamo dall'inviato Alberto Negri. Alla fin, ils lui ont dit, voilà le bureau de Ahmed Rabelsi, tu pars chez lui pour discuter et négocier avec lui. C'est ça un gouvernement? C'est ça la liberté? C'est ça l'investissement en Tunisie? Nous ne voulons pas la promotion de la France des jeunes qui en Tunisie? Aider en envoyant ses soldats. Voilà. C'est ce qu'a dit la ministre. Madame la ministre a dit, on est prêt à aider. Ecco, mi trovo a Biserta, vicino alla piazza dell'orologio, davanti alla sede dell'UGT, cioè dei sindacati. Qui la gente è radunata ed è inferocita non soltanto contro il governo, ma anche contro coloro che stanno effettuando saccheggi in tutta la città. Pour avoir une autorisation maintenant pour ouvrir un petit magasin, on ne passe pas par le gouvernement. Non vogliamo i saccheggi, dicono. La polizia si è ritirata apposta, è stato un ordine dall'alto di Ben Ali per lasciare che scivoli il paese nell'anarchia e nella guerra civile. C'è molto timore qui, molta rabbia. La gente chiede libertà, dignità, lavoro e soprattutto chiede a Ben Ali di andarsene. Tutti temono che questa situazione possa scivolare appunto in una situazione di guerra civile, di disordine, di anarchia, in cui poi la repressione diventi ancora più dura. Grazie Alberto Negri, lo sentivate, situazione concitata, attesa in queste ore in Tunisia, continueremo a raccontarvelo nel corso della giornata, se ci saranno aggiornamenti anche in questo notiziario. Veniamo ora invece alle vicende italiane, oggi una giornata di attesa su più fronti, il fronte Fiat e quello invece della Corte Costituzionale. Cominciamo da Torino, dove parte oggi a Mirafiori il referendum tra i lavoratori chiamati a pronunciarsi sul piano Marchionne. Se vince il no è giusto andare via, ha detto ieri il premier Berlusconi. A rispondere questa mattina è stata ospite ad un convegno del Sole 24 Ore il segretario della CGIL Susanna Camusso. In un paese normale un governo di fronte a un'impresa che vuol fare degli investimenti avrebbe fatto tutto diverso, avrebbe chiamato quell'impresa, avrebbe discusso degli investimenti, avrebbe verificato anche le cose che poteva fare e avrebbe fatto di tutto perché quell'investimento ci fosse. Non avendo fatto tutto ciò, invece si fa dello spettacolo e lo si fa non a caso stando anche fuori confine, così non c'è rischio che ci sia confusione. In fondo se si guarda la coreografia lo fa esattamente di fianco alla Presidente del Consiglio del Paese che a quella stessa impresa gli ha detto non ci sono sufficienti garanzie perché lei venga qui a investire. La stessa Camusso ha poi aggiunto, comunque andrà la FIOM, resterà in fabbrica. A parlare questa mattina anche il ministro Paolo Romani. Nessuno di noi immagina che a Torino fra oggi e domani ci possa essere un risultato negativo. Siamo stati a fianco dell'azienda, abbiamo parlato con i sindacati in più di un'occasione, abbiamo verificato con l'azienda e con i sindacati i passaggi. Voi sapete che il problema non è solamente degli investimenti Fiat, ma il problema non è solo di Mirafiori, non è solamente di Pomigliano, è anche di Termini Imerese, sono anche degli altri siti industriali, è del mercato complessivo dell'automobile e dell'indotto, cioè i processi industriali non sono così semplici e ogni volta non è così automatico pubblicare tutto ciò che si fa. Il governo non è stato spettatore, è stato protagonista di questa avventura. E intanto a Torino sono le ore delle ultime assemblee, le chiamate al voto dei sindacati in attesa che si aprano le urne nello stabilimento per il referendum. Ma in quale clima? Andiamo allora ai cancelli di Mirafiori dove c'è Paolo Piacenza. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Qui a Torino di fronte alla porta 2 di Mirafiori è quasi il momento dell'ultimo cambio turno prima del voto. La situazione è tranquilla. Si sono svolte le ultime assemblee della FIOM che erano iniziate ieri, Landini, uscendo, ha ribadito che la FIOM non firmerà l'accordo indipendentemente dall'esito del referendum, perché ha detto si tratta di un plebiscito e di un ricatto. Poi ha parlato di assemblee molto partecipate e ha anche spiegato che l'azienda continua a tenere i suoi momenti informativi sull'accordo, ovviamente criticando la scelta dell'azienda. L'assemblea fuori dalla fabbrica organizzata dal Fronte del Sì nella vicina parrocchia del Redentore invece è andata quasi deserta, la partecipazione è stata molto bassa, un segnale, anche se non lo possiamo considerare indicativo dell'esito del voto, che parte stasera al turno delle 22 e si conclude domani all'inizio del turno pomeridiano, quello delle 14. Oggi ho fatto un giro in città per raccogliere le voci dei torinesi in centro, nei mercati. I torinesi restano divisi, sentiamo le voci raccolte tra i banchi di Corso Racconigi. Votare no, perché è una vergogna. Perché sono ricattati, non votano liberamente. Poi non solo, insomma, in un momento di crisi ci sono licenziamenti in ballo e adesso... La crisi la fanno pagare chi lavora. Chi lavora, ecco. Più o meno... Perché prima c'è il lavoro, perché se chiude la fabbrica, addio diritti, con chi protesti? Con chi protesti? Oltre con quelli che non lavorano. Io ho lavorato 25 anni in Fiat. Io ne ho lavorato 18. Conviene aggiustarsi. Penso che Marchionne stia facendo un po' quello che voglia. Gli operai fanno bene a protestare. E da Torino è tutto. Grazie a Paolo Piacenza. Spettatrice in queste ore anche la borsa, Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, la borsa oggi vive una giornata contrastata, anche se c'è un miglioramento rispetto alla mattinata che è stata trascorsa in territorio negativo da Londra e Francoforte, mentre Parigi e Milano da stamane sono con il segno positivo, che stanno adesso rafforzando. FTSE MIBA Piazza Affari più 0,75%, quindi in ulteriore ampliamento i guadagni già molto sostenuti messi a segno ieri, ma sono soprattutto le aste dei titoli di Stato ad attirare le attenzioni degli investitori. Dopo l'appuntamento con il Portogallo di ieri, oggi all'esame del mercato c'era la Spagna e soprattutto l'Italia. La Spagna ha collocato titoli di Stato quinquennali per 3 miliardi di euro, ha dovuto pagare rendimenti più alti, il tasso medio è salito al 4,54%, ma il mercato si aspettava che dovesse pagare almeno il 5%, per cui una crescita sì, ma inferiore alle attese, e questo è stato colto come un segnale di buon auspicio. Tassi in netto rialzo invece all'asta dei BTP a 5 anni del Tesoro italiano, il rendimento annuo lordo è salito al 3,67%. Per trovare un rendimento più alto bisogna salire al gennaio del 2009 al 3,87%, tassi in rialzo anche per i BTP a 15 anni al 5,06%. C'è però da dire che il Tesoro ha collocato tutta la forchetta massima prevista a 6 miliardi a fronte di una domanda da parte della comunità finanziaria che è stata molto alta e ha superato gli 8,4 miliardi di euro. In questa situazione appunto di buon collocamento per i titoli di Stato dell'Eurozona, l'euro sale sul dollaro a 1,3158. Anna. Grazie anche a Deborah Rosciani. L'altro fronte di attesa della giornata, occhi puntati oggi anche sulla Consulta, dove i giudici costituzionali sono riuniti per decidere sul legittimo impedimento. Qui che succede, Alessandra Schepisi? Sì, buongiorno. Come previsto è una lunga Camera di Consiglio, quella che vede riuniti 15 giudici della Corte Costituzionale alle prese con l'esame del legittimo impedimento, lo scudo giudiziario che tiene lontano il Premier dai processi a suo carico. La Corte, riunita dalle 9.30, dovrebbe tra poco concedersi una pausa per tornare poi a riunirsi nuovamente alle 16. Il verdetto dovrebbe dunque arrivare nel pomeriggio. Una decisione che influirà anche sulla sorte del referendum. Se la legge dovesse essere tutta in parte salvata, la consultazione, cui ieri è stata aperta ufficialmente la strada, si svolgerà. In caso di bocciatura non si svolgerà, mentre in caso di bocciatura parziale deciderà la Cassazione. Alle 15 davanti alla Consulta ci sarà anche il Popolo Viola, che dice di voler sostenere idealmente la Corte, festeggiare nel caso in cui la legge venga cassata. Dal Palazzo intanto continua a non trapelare nulla, l'accesso è ovviamente vietato ai giornalisti, ma l'ipotesi, perlomeno quella fino a ieri più accreditata, sarebbe quella di una bocciatura parziale con una sentenza cosiddetta interpretativa che non la cancelli del tutto ma che ne riduca il campo di applicazione, uno scudo giudiziario insomma più debole. E da Roma è tutto, con la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Le conseguenze della decisione arriveranno a Milano. Cosa dipende dall'esito della Consulta? Quali processi potrebbero riaprirsi appunto a Milano? Sentiamo. I processi del Premier sono gli stessi dei tempi del lodo Alfano. Più difficile, invece, rispetto ad un anno fa, il loro eventuale iter, anche nel caso in cui, ad esempio, la consulta dovesse stabilirne la ripresa. 5 giudici su 7, infatti, potrebbero cambiare. Per il processo Mills, corruzione in atti giudiziari, potrebbe essere necessario un terzo diverso presidente. L'attuale, Francesca Vitale, da mesi è passata in corte d'appello, o quindi chiederà la cosiddetta applicazione o il collegio che aveva sostituito il primo dopo la sentenza di condanna dell'avvocato inglese coimputato di Berlusconi, dovrà cambiare. Tempo invece già quasi scaduto per Edoardo Davossa, già applicato al procedimento sui diritti televisivi Mediaset dopo il trasferimento alla Spezia. I 2 anni a sua disposizione stanno per finire e sia che si faccia sostituire subito, sia che lo faccia poi, quasi sicuramente gli atti fin qui acquisiti non saranno più validi e bisognerà ricominciare da capo con la prescrizione dietro l'angolo, e altra destinazione hanno già anche gli altri 2 componenti di questa corte. Infine cambia il giudice anche dell'udienza preliminare per il caso MediaTrade, dove Berlusconi è accusato di appropriazione indebita. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Il dibattito Fiat, così come l'attesa per la decisione sul legittimo impedimento, hanno investito anche il Partito Democratico. Il partito di Bersani è riunito in queste ore. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, e la riunione di oggi è proprio l'occasione per un confronto richiesto da più parti per conoscere dal segretario le strategie per il futuro, per capire il ruolo che avrà sulla scena politica la maggiore forza di opposizione i prossimi mesi. A detta allora Bersani decideranno per i prossimi anni. Sono alla ricerca, aggiunto, del massimo di unità, visto il passaggio delicato, ma serve anche chiarezza, e chiederò che la direzione assuma una responsabilità attraverso il voto. Il PD si metta alla guida di una riscossa italiana o il paese si disgrega, ha chiesto ancora Bersani ai membri della direzione del partito. A livello programmatico, quindi, le sue proposte: una conferenza nazionale del PD che coinvolga tutti i circoli da fare entro il 2011, ed ancora sulla legge elettorale un doppio turno con quota proporzionale. Ma sono molti, ricordiamo, gli argomenti che animeranno la direzione: l'accordo Fiat, le primarie, le alleanze. Proprio su quest'ultimo nodo la fronda interna guidata da Veltroni promette battaglia, chiedendo una maggiore identità del Partito Democratico. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Non c'è in queste ore all'incontro del Partito Democratico Matteo Renzi, perché questa mattina era a Roma ma a Palazzo Chigi per la firma di un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e il Comune di Firenze. Un protocollo che porterà nella città denaro per la tutela e il rilancio del patrimonio artistico fiorentino. Se il risultato è questo, ha scherzato Matteo Renzi, chiederò di essere ricevuto una volta al mese ad Arcore, anzi, se funziona, fisso già l'incontro di gennaio. Questa la battuta del sindaco di Firenze Matteo Renzi. Ad aspettare una nuova giunta è invece la città di Roma. Entro oggi il sindaco Alemanno ha promesso che renderà nota la nuova squadra. Intanto però la capitale ha incassato un no, ma che riguarda la Formula 1. Non è un buon momento per il sindaco di Roma Gianni Alemanno, un guaio tira l'altro come le ciliegie. Azzerata la giunta, ora si ritrova fuori corsa anche per il Gran Premio di Roma, bocciato senza appello da Ecclestone, gran capo della Formula 1. In una lettera scritta al quotidiano Repubblica, Ecclestone osserva che nessuno nel circuito vuole 2 Gran Premi nello stesso paese. Quindi, essendoci in Italia già quello di Monza, considerato intoccabile, il progetto di Roma è inevitabilmente destinato a sfumare. Per ironia della sorte, il no di Ecclestone arriva proprio nel giorno in cui gli organizzatori romani annunciano la presentazione del loro progetto. Più un necrologio, quindi, che la nascita di un nuovo Gran Premio. Una goccia in più di vetriolo poi arriva dal leghista Mario Borghezio. In un messaggio da Alemanno dice che con il riconoscimento dell'indipendenza della Padania si aprirebbe per Roma Capitale una strada maestra per ottenere il Gran Premio. Sarà, ma visti i tempi con cui si muove il federalismo, forse meglio che Alemanno ripieghi su una corsa campestre. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo con le notizie principali di GR24. Fiat, la Camusso contro Berlusconi abdica al suo mestiere. Oggi il giorno del voto a Mirafiori. Legittimo impedimento, i giudici in Camera di Consiglio. Decisione attesa nel pomeriggio. Scontri e vittime in Tunisia. L'esercito si ritira dalle strade della capitale. Questa mattina saccheggi e cortei. Oltre 300 morti per le alluvioni in Brasile. In Australia ingenti danni e migliaia le case sott'acqua. Riprendiamo allora proprio da qui. Sono impressionanti i danni delle alluvioni che in queste ore stanno devastando Australia, Brasile ma anche Sri Lanka. Cominciamo dal Brasile, dove le vittime, come sentivate, sono centinaia. Desapareceram sob as águas. Regiões inteiras estão isoladas. A solidariedade tenta substituir o socorro. È questo il panorama che si presenta a chi sorvola la regione della Serrana nello stato di Rio de Janeiro. Le piogge torrenziali, gli smottamenti che hanno seguito hanno distrutto strade, isolato villaggi, sommerso case e mezzi. Gli abitanti dal basso tentano di attirare l'attenzione con fazzoletti bianchi. C'è chi piange, chi, dove non sono arrivati i soccorsi, scava tra i detriti e il fango alla ricerca dei dispersi. 349, scrive il quotidiano Il Globo, i morti accertati. A pagare il tributo più alto il comune di Nova Friburgo, dove sono 168 le vittime, ma anche Teresopolis e Petropolis sono stati duramente colpiti. Manca la corrente, l'acqua, persino i collegamenti telefonici sono compromessi. Il presidente Dilma Rousseff sorvolerà le aree devastate. Per i primi aiuti ha sbloccato 500 milioni di dollari. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le violente alluvioni e frane hanno colpito anche l'est e il centro dello Sri Lanka, 21 qui le vittime, oltre 1 milione gli sfollati. In Australia, Brisbane, la principale città della regione del Queensland, si fa la conta dei danni dopo la piena del fiume omonimo che è avvenuta nella notte. Dall'Australia, Linda Di Virgilio. Gran parte delle città di Brisbane e Ipswich, le ultime due in ordine cronologico ad essere colpite dalle forti alluvioni nello stato del Queensland, restano sommerse dalle acque, ma nel complesso la situazione sembra in netto miglioramento, dato che il livello del fiume Brisbane in queste ultime ore è sceso ai 4 metri e per domani mattina dovrebbe perdere ulteriormente di intensità. Anche nel centro di Ipswich la situazione sta pian piano migliorando, dato che le autorità parlano di un ritiro rapido delle acque alluvionali. Il bilancio dei morti però è in aumento, 15 il numero delle vittime sinora accertato e 61 le persone disperse e si teme il peggio per 12 persone scomparse dopo che le loro case sono state inghiottite dalla forte corrente d'acqua nella Lockyer Valley, zona ovest di Brisbane, nella giornata di lunedì. E un numero maggiore di agenti di polizia è stato dispiegato nelle zone maggiormente devastate per garantire sicurezza e prevenire saccheggi. Il governo federale ha inviato anche ulteriori elicotteri della difesa che provvedono a rifornire di cibo e di beni di prima necessità i centri cittadini precedentemente colpiti dalle inondazioni nell'entroterra dello Stato e che sono ancora isolati. E un ultimo dato, 100.000 le case senza energia elettrica e i soccorritori continuano a ricevere richieste di aiuto, 9.000 nelle ultime 24 ore e la carenza di acqua potabile preoccupa non poco le autorità. All'estero restiamo negli Stati Uniti. Nella notte italiana c'è stato il commosso discorso del presidente americano Obama ai funerali delle 6 vittime della strage in Arizona. Yes. We have to examine all the facts behind this tragedy. We cannot. Un confronto indiretto a distanza fra Barack Obama, il presidente che ha cercato di unire ieri il paese ricordando le vittime dell'attentato di Tucson in Arizona, e un discorso alquanto provocatorio invece da parte di Sarah Palin, che ha rivendicato il diritto a usare i termini accesi della politica quanto meglio le aggrada. It is time to restore the American. Questa differenza ha colpito ovviamente, perché Barack Obama ha cercato invece di unire il paese, soprattutto ha ricordato le vittime nel dettaglio delle loro esperienze di vita, un ricordo triste che ha commosso il pubblico, 13.000 persone riunite allo stadio. Il presidente ha dato anche una notizia, ha ricordato di essere andato in ospedale poco prima con Mark, il marito la deputata ferita, l'astronauta, e di aver visto la deputata che per la prima volta ha aperto gli occhi. Lo stadio è esploso in un boato di applausi. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore a New York. Ritroveremo Mario Platero alle 13.45, vi ricordo, con America 24. Noi torniamo ora invece alle notizie italiane. Due famiglie nomadi del campo milanese di via Triboniano sono entrate negli alloggi di edilizia popolare dopo la decisione del Tribunale Civile di Milano, che il 20 dicembre scorso, ricorderete, aveva stabilito l'obbligo da parte del comune di assegnare le case popolari ai Rom. Altre due famiglie lo faranno nel fine settimana. Intanto oggi davanti al collegio del Tribunale Civile di Milano si è svolta l'udienza per il ricorso presentato dal comune. I giudici si sono riservati di decidere, lo faranno nei prossimi giorni. Terza vittima dell'influenza H1N1, una donna di 41 anni, è morta all'ospedale di Conegliano Veneto in provincia di Treviso. Come le altre due vittime dei giorni scorsi, aveva patologie croniche, tra cui diabete. centinaia di studenti inesistenti in un istituto scolastico paritario del Napolitano, l'ISEF di Poggio Marino. Due persone sono state arrestate, altre sei denunciate per associazione per delinquere. Il colonnello della Guardia di Finanza Fabrizio Giaccone al microfono di Maria Piera Ceci. Abbiamo riscontrato che l'80% più o meno degli studenti, su un totale di 1000 per anno, noi abbiamo indagato su 2 anni scolastici, risultavano falsi, erano studenti o completamente fittizi, quindi nome e cognomi di persone realmente esistenti iscritti, che risultavano essere iscritti nelle liste scolastiche, nei registri, o studenti che frequentavano l'istituto 2 o 3 giorni al massimo al mese, contrariamente risultavano presenti per l'intero mese scolastico. Perché scuola paritaria richiede una formazione di classi con un minimo di 8 studenti, perché lo Stato riconosca la parità e quindi l'istituto possa rilasciare diplomi di maturità e gli esami annualmente sostenuti vengano riconosciuti a livello scolastico nazionale. E anche ricevere dei finanziamenti? E anche ricevere dei finanziamenti, ma più che altro i finanziamenti derivavano dalle iscrizioni, perché ogni ragazzo in media paga una retta di un 5.000 euro l'anno. Queste cose accadono per l'eccessiva lentezza nell'arrivo dei finanziamenti statali, così replica Carlo De Rosa, presidente dell'Associazione Scuole Paritarie. I contributi, i finanziamenti per le scuole paritarie sono essenziali per l'attività gestionale di molti istituti, per cui se i finanziamenti probabilmente non arrivano in maniera adeguata, purtroppo possiamo anche dire che si fa spazio a dei fenomeni di illegalità che ovviamente sono da condannare, sono da reprimere con il massimo rigore, però a monte ci vorrebbe anche un'attenzione maggiore dello Stato per le scuole paritarie. Vi abbiamo raccontato del clima a Mirafiori, ricordiamo questa sera cominceranno a votare i lavoratori dello stabilimento torinese, arriva adesso la notizia di altre scritte intimidatorie contro Marchionne comparse come già nei giorni scorsi sui muri italiani. Servi di Marchionne sono le scritte comparse oggi sul palazzo nel centro di Viareggio in cui hanno sede uffici della CISL, sulle facciate e sul vetro della porta d'ingresso dell'edificio sono stati anche dipinti falce, martello e stelle a 5 punte. Per tutti i bimbi come te, forza Diego, corri a riprenderti, sogni che hai lasciato. E quella che sentite è la canzone prima in classifica nelle vendite online del sito Mondadori dei brani singoli. Si chiama Forza Diego Corri, scritta, composta e cantata dalla varazzina Nadia Ghigliotto con l'arrangiamento di Emanuele Dabbono, ex concorrente di X Factor. Ve lo raccontiamo perché è dedicata a Diego, un bimbo di Celle Ligure di meno di 2 anni affetto dalla SMA, l'atrofia muscolare spinale. Forza Diego Corri è prima e ha battuto cantanti come Jovanotti, Shakira e Gianna Nannini. Altre notizie di questi minuti, vi abbiamo raccontato del no arrivato da Eccleston al Gran Premio di Roma. Ebbene, in questi minuti è una nota del sindaco di Roma Gianni Alemanno. La decisione di Bernie Eccleston non è una bocciatura del Gran Premio di Roma, scrive il Campidoglio, come evidente dalla lettera, afferma il primo cittadino. C'è da parte sua la bocciatura per Roma, ma la decisione di concedere all'Italia un solo Gran Premio a Monza o a Rona o a entrambe le città, ma a stagioni alterne. Questa decisione, prosegue Alemanno, è un fatto nuovo che subentra dopo che per molto tempo il presidente della Formula 1 aveva ribadito, anche con me personalmente, la volontà di far disputare in Italia 2 Gran Premi, uno nazionale a Monza e uno speciale a Roma. Vi dicevamo della lettera di questa mattina, vicenda non chiusa. Altra notizia dell'ultima ora, le telecronache delle partite del prossimo fine settimana del campionato di calcio di Cagliari, Catania, Cesena, Chievo, Lecce, Parma, Sampdoria e Udinese saranno regolarmente trasmesse da Dalia TV nonostante la messa in liquidazione della società, lo annunciano i giornalisti del emittente. Nonostante il perdurare di un clima di grande incertezza, si legge anche qui in una nota, saremo in onda nel fine settimana. Il FAIL, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con gli amici di Brera, ha lanciato nel 2010 una serie di iniziative per attirare l'attenzione sullo stato di degrado dei tetti della Biblioteca Nazionale Braille Dance di Milano, iniziativa che hanno permesso di raccogliere una cifra che consenta un primo intervento di restauro. I fondi raccolti sono stati ufficialmente consegnati oggi. Adriana Fracchi ha intervistato Anna Gast, la presidente del FAIL Lombardia. Gli amici di Brera hanno chiamato il FAIL dicendo: ma qua c'è questo problema grave sui tetti della Braille Dance, ci sono delle infiltrazioni d'acqua proprio per la sala manzoniana, che è una delle parti più preziose della biblioteca, e ci sono anche altri interventi da fare in altre sale. Noi siamo andati, abbiamo visto e ci è sembrato veramente una situazione di grande emergenza, e siccome il FAI nelle varie delegazioni può fare questo puntiamo riflettori, che è un'idea di cui appunto l'attenzione, diciamo, della città si rivolge verso un bene che non è proprietà del FAI ma è un bene della comunità, noi si cerca di fare varie azioni per cercare di sensibilizzare sia l'opinione pubblica che trovare i soldi necessari per avviare i lavori di restauro, cosa che è stata fatta con due aste di vini dati gratuitamente per l'occasione, e le due aste hanno fruttato una bella quantità di denaro insieme ad un'altra manifestazione che abbiamo fatto per i bambini. I soldi che abbiamo raccimolato sono stati un po' di più di 28.000 euro, che consegneremo appunto alla Biblioteca Nazionale Braille Dance per tamponare la prima parte del tetto, che era quella più rovinata. Le 13:28, si conclude qui questa edizione di GR24, in regia Filippo Aureggi. Io vi lascio con Italia in Controluce, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.